tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, tocca alla Fiorentina cominciare questo trittico italiano che continuerà poi domani sera con il Milan a Manchester e martedì prossimo con il ritorno dell'Inter in casa del Chelsea. C'è una notizia appena uscita sulle agenzie, ma non quelle sportive, che chissà che non porti buono alla Fiorentina. Pensate, stamane in Santa Croce a Firenze, una delle più belle basiliche dell'universo, è riaffiorato un giotto sconosciuto e straordinario, cioè non è riaffiorato stamattina, nel senso che stamattina è stato completato l'esame condotto dalla Getty Foundation di Los Angeles in collaborazione con l'opificio delle pietre dure. Bene, questo è un vero giotto, oggi scomparso, e questa nuova tecnologia permette di scoprire i volumi, i volti, i panneggi e i decori di tutto quello che Giotto dipinse allora. Io sentirei, prima di collegarci con Fabio Tavelli, che peraltro detto tra noi è già anche collegato, sentirei la vigilia della Fiorentina, di questa partita storica per Firenze e la Fiorentina, la vigilia di Prandelli. Vedremo in campo, sono convinto, una squadra che cercherà in tutti i modi di entrare definitivamente in una storia importante, quindi non ci sono problemi di stanchezza, non ci sono problemi psicologici, dobbiamo entrare nella partita con la concentrazione giusta, anche perché sabato abbiamo fatto secondo me un ottimo primo tempo e quindi dobbiamo partire da lì. Ma se guardiamo le statistiche europee non vedo una squadra che non subisca gol da tante partite. Il calcio da questo punto di vista è cambiato, ci sono molte squadre che anche in trasferta riescono a dare un'impronta importante al gioco offensivo. Non è tanto un problema di non prendere gol, il problema è di avere un certo equilibrio, una certa compattezza di squadra, e poi siamo arrivati alla diciassettesima, giusto? Quindi è ora di chiudere. Alcuni messaggi SMS segnalano problemi di ricezione proprio a Firenze. A Firenze, a Prato e a Pontedera, e quindi lo giro come sempre ai nostri tecnici. Bentornato a Fabio Tavelli. Grazie Gigi, un saluto a tutti. Fabio, queste due partite, la vigilia di queste due partite, partiamo da oggi e poi ci proiettiamo su domani, e quindi il momento in particolare del Bayern e le prospettive per Arsenal Porto. Ma il Bayern di Monaco è una squadra che in trasferta fa benissimo, questo lo sa Prandelli, ma fa benissimo nella stessa misura in cui la Fiorentina fa benissimo. Non dimentichiamoci che la Fiorentina è lì soprattutto per il suo grande rendimento casalingo, perché la Fiorentina è uscita da un girone di qualificazione molto difficile sulla carta, nel quale i Viola non erano favoriti, e l'ha fatto soprattutto vincendo tre partite in casa, al di là poi del Debreceni che era la quarta designata. Certo. Però la Fiorentina ha battuto il Lione, la Fiorentina ha battuto il Liverpool, e la caratura del Bayern di Monaco è quella del Lione e del Liverpool, quindi l'avversario è certamente alla portata. Spaventa il Bayern di Monaco per due motivi: intanto perché il Bayern di Monaco da quel giorno a Torino, ai primi di dicembre, non ha più sbagliato un colpo, lo fa anche perché è una squadra che in trasferta sembra andare quasi meglio che in casa, perché non perde da tantissimo tempo, perché ha sempre la capacità almeno di segnare un gol, e perché proprio in trasferta, proprio a Torino, il Bayern di Monaco è sopravvissuto a una situazione che poteva diventare disastrosa, e con ripercussioni che poi potevano esserci sia sul campionato che sulla sua guida tecnica. È una squadra che, se in serata, e spesso le è capitato, è irresistibile sulle fasce, dove Robben è in grado di fare dei danni, e ne ha fatti parecchi anche all'andata, ma la partita dell'Allianz Arena, al di là poi dell'errore di Ovrebo e della terna arbitrale, è la partita dalla quale la Fiorentina deve partire. Certo. Per considerarsi comunque favorita, perché se prendiamo i risultati e li leggiamo dal punto di vista dell'ortodossia di Coppa, perdere 2-1 fuori è un buonissimo risultato, perché con l'1-0 tu passi, e quindi la Fiorentina non deve andare in campo preoccupata. Mi sembra che le parole di Prandelli autorizzino a pensare che la Fiorentina vada per giocarsi questa partita ad armi almeno pari. Raccontavano prima anche le ultime informazioni del giornale radio che c'è minaccia di neve, che è già caduto qualche fiocco, anche se in realtà pare proprio che questo tipo di problema continuerà ad incombere per tutta la giornata e forse anche tutta la serata, ma ma non dovrebbe poi trovare sfogo, non dovrebbe perlomeno, mettiamola così. L'altra partita di serata è Arsenal-Porto e poi domani tocca al Milan. Proiettiamoci anche su questa, sulla settimana intera di Coppa. Ma la settimana intera di Coppa, diciamo che la sera del martedì è quella meno eclatante, perché non ce ne vogliono i tifosi della Fiorentina o quelli del Bayern di Monaco. Anche Arsenal-Porto è un match tra due squadre che non hanno una prospettiva così lunga, mentre invece domani sera, nella migliore delle ipotesi una, ma nella peggiore delle ipotesi due, perderemo due candidate comunque alla vittoria finale, perché sì. Barcellona, Manchester United e Milan, ovviamente con tutta la prudenza del caso, ma anche il Milan non può non considerarsi una candidata alla vittoria finale. Insomma, una di sicuro andrà fuori e verrà certamente dalla sfida tra Milan e Manchester, e poi l'altra c'è il Real Madrid, e il Real Madrid la gara d'andata l'ha persa, quindi dovrà comunque fare una gara di un certo tipo. È una serata nella quale io, al di là poi della curiosità molto italiana di vedere come imposterà la gara il Milan a Manchester, sono molto curioso di vedere il Real Madrid, perché da qualche settimana mi pare di aver colto, anzi certamente sono coglibili dei segnali importanti di risveglio da parte del Real Madrid, non ancora su tutta la partita, perché ad esempio nella gara contro il Siviglia la squadra è andata sotto pesantemente e ha avuto bisogno di una rimonta nervosa ma anche tecnica importante, col recupero di Guti e con il gol poi nel finale di Van der Vaart. Quindi io ho il sospetto che Real Madrid stia entrando in temperatura, cioè che Real Madrid stia entrando nella tensione giusta per il finale di stagione. Credo che ce l'abbia anche il Barcellona questo sospetto, e che questa sia una squadra che è partita e che rischi di non fermarsi più. Poi magari domani sera il Lione vince e quindi... E li elimina, ecco. No, ma è vero, però la suggestione di una finale di Coppa al Bernabeu probabilmente potrebbe anche aver suggerito al Real una preparazione, come dire, a salire. Poi è evidente che il rendimento sarebbe comunque salito col tempo, mano a mano che questi giocatori si presentavano tra loro. Questo era psicologico, sì. Piacere, no, io mi chiamo Kakà, io mi chiamo Ronaldo, io sono Benzema, cioè, perché insomma è ovvio che quando fai la collezione di figurine i primi tempi sono difficili, però poi queste figurine sono di primissima scelta, già si innestavano su un telaio più che discreto, e quindi evidentemente il rendimento del Real non può che migliorare. Per converso c'è quello del Barcellona, che sta conoscendo qualche flessione. Una curiosità: Guardiola in un anno e mezzo di Barça, no, un anno e mezzo abbondante insomma se vogliamo, però è arrivato alla quinta espulsione. Sono tante per uno che apparentemente si comporta in maniera così glaciale e così educata. Guarda Gigi, posso anche dirti che sommate, l'ho trovato su Marca ieri, sommate alle espulsioni ottenute da giocatore, Guardiola è il blaugrana più espulso della storia, perché è stato espulso 8 volte da giocatore e 5 da allenatore, e mai nessuno della storia blaugrana è stato espulso così tante volte, il che è un nonsenso se pensiamo alla civiltà di pensiero e la civiltà anche di come si pone Guardiola. Però è evidente che insomma ci sono delle cose che non gli vanno giù, ed è altrettanto evidente che gli arbitri non debbano guardare in faccia Guardiola piuttosto che un altro allenatore, e quindi lo debbano cacciare ogni volta che c'è quell'attimo evidentemente in cui sbrocca. Questo è un discorso per fortuna, perché altrimenti sarebbe davvero in odor di santità. Esatto, no? Sarebbe un Superman oltretutto in odor di santità. Siamo partiti alle 9 da Bergamo, scrive Claudio, non siamo ancora a Firenze, si hanno notizie di rinvii? No, per fortuna no Claudio, perché se no l'avreste sprecata davvero sta gitarella con sto freddo. Poi no, se mai si ha notizie di altri problemi di ricezione, per esempio anche a Viareggio, mi segnala un altro ascoltatore in tempo reale, però vedrete che prima della fine della puntata i nostri uomini sistemeranno le cose come sempre riesce a loro. Fabio Tavelli, torniamo a Reale Barcellona. Dunque si sta un po' capovolgendo il rapporto di forza, se non altro da un punto di vista psicologico. Certo, la psicologia come sempre nasce poi da risultati o comunque da sensazioni che si ricavano dal campo. Io ne ho un'altra, visto che stavamo parlando anche di arbitri, di espulsione di Guardiola. Ho come la sensazione, avendo visto espellere Ibrahimovic l'altra sera in una maniera a parer mio assolutamente gratuita. Poi diverso è il discorso che senza Ibra il Barcellona gioca meglio, ma questo però non vuol dire che non vuol dire che si giochi meglio in 10 che in 11. Avendo visto quello, avendo visto un altro paio di trattamenti anche in partite interne al Barça quest'anno, che non mi pare abbiano un corrispondente nei confronti, insomma una corrispondenza nei confronti del Real Madrid, mi sono quasi fatto la sensazione che il principio dell'alternanza in Spagna quest'anno non sarebbe così mal visto. Probabilmente sarebbe sgradito, o quantomeno sarebbe gradito, insomma, che il Barcellona non facesse, adesso 6 su 6 non può farlo quest'anno, ma che non facesse almeno 5 su 6 o 4 su 6. Insomma, la verità è che il Real Madrid gode, oltre che di ottima stampa, anche di un certo tipo di potere, e questo non da oggi e sarà sempre così. Ogni tanto lo chiedono a Guardiola e Guardiola si sforza di mantenere aplomb e di essere ancora più perfetto di quello che lui è e quello che lui risulta, sì. Per cui anche sull'espulsione di Ibrahimovic, anche su tutto il resto ha cercato di minimizzare e quant'altro. Quello che dici tu è vero, cioè il Real Madrid, il Barcellona gioca tendenzialmente meglio quando Ibrahimovic non c'è, però ha bisogno di essere almeno in parità numerica. L'assenza di Ibrahimovic deve essere una scelta tecnica o un infortunio, non un'espulsione, altrimenti certo. è comunque una squadra che può andare in difficoltà. La sensazione è che il Real Madrid, secondo me il Real Madrid qualcosina ha sempre avuto anche nelle annate storte, anche in quelle dove non riusciva poi a capitalizzarlo dagli arbitri rispetto al Barcellona. È anche vero che, come ha detto Johan Cruyff, che settimanalmente tiene una rubrica su Marca, troppi giocatori importanti del Barcellona stanno rendendo leggermente al di sotto, cioè finché qualcuno, ma quando sono tanti, cioè comunque una stagione come quella che Xavi e Iniesta hanno avuto l'anno scorso, vuoi per infortuni, vuoi per un minimo di appagamento o anche semplicemente per un retropensiero lontano che può essere quello di conservarsi per il mondiale, può far sì che la squadra giochi a 2 chilometri all'ora meno della propria velocità normale, e questo a quei livelli fa la differenza, altrimenti una partita come quella con l'Almeria non puoi non vincerla. E quindi ci può stare tutto, ci può stare anche il fatto che il Barcellona comunque alla Champions League debba pensare, perché non è che ha vinto 8-0 in trasferta a Stoccarda la gara d'andata, no? Per cui deve comunque prepararla anche, preparare anche il ritorno, che forse pensava fosse più tenero. E dall'altra parte c'è una squadra come il Real Madrid che sta vincendo sempre, perché se non ci fosse il Real Madrid, il Barcellona avrebbe fatto comunque una corsa solitaria, basta vedere il vantaggio che ha sul Valencia e sul Siviglia. Hai detto bene, comunque basta quel pizzico, tu hai detto due all'ora, ma insomma quel pizzico di velocità in meno, e questo gioco, che è certamente il più divertente, il più spettacolare e il più elegante del mondo, comunque prende quel minimo di stucchevole, no? Perché sì, ma è lo stesso problema che ha l'Arsenal, nel senso che quando lo recitano comunque gli 11 migliori che hai è un conto, quando cominci a dover cambiare un paio di pedine magari ce la fai, quando ne cambi 3-4 e di quelli che solitamente recitano ne hai 3-4 che sono leggermente sotto il loro standard, sotto il par, metti tutto insieme e poi ci sta anche il fatto che gli avversari ormai ti conoscono alla perfezione, quindi se prima li battevi lo stesso perché loro sapevano quello che tu avresti fatto, ma tu lo facevi così meglio, no? Così bene, certo. per riuscire a vincere, magari questa volta le squadre avversarie sono più attrezzate, ti aspettano, e se non sei perfetto possono anche, non dico batterti, ma almeno non perdere. Un giorno o l'altro poi vedremo, quando il Bordeaux recupererà la partita che deve recuperare, come si mette col Montpellier dopo questo pareggio tra loro due domenica scorsa, che le ha lasciate a pari punti. Però esatto. visto che il tempo passa e ci interessano di più le inglesi, mi sembra che sia Manchester che Chelsea qualche pezzo continuino a perderlo comunque. No, continuano a perderlo. Non è un caso che in questa fase della stagione gli inglesi comincino ad accusare le fatiche, però effettivamente gli infortuni, quelli da trauma, li abbiamo visti, cioè l'infortunio che è occorso a Ramsey non può venire catalogato, perché per fortuna è una rarità, anche se all'Arsenal purtroppo sta accadendo un po' troppo spesso. Però Anderson che finisce la stagione, l'infortunio di Essien che sembrava recuperato, poi no, e tutti i problemi che ha il Chelsea. Quando le squadre devono schierare troppi giocatori che non hanno nelle gambe, nella testa e diciamo così sul proprio libretto di circolazione l'esperienza a questi livelli, poi le paghi. Infatti io sono convinto, ma lo dico da un po' di tempo, che le squadre inglesi quest'anno faranno molta fatica, a portare una squadra in finale, per cui sono abbastanza convinto che almeno una delle due, se non tutte e due, possono, le italiane possono, le milanesi possono passare il turno. Senti, c'è un ascoltatore che domanda, ma non è che tra Inter e Barcellona con lo scambio e Toi Ibra non ci ha guadagnato nessuno, procuratori esclusi? Questa è una teoria che qualcuno anche di noi ha fatto a settembre, e il sospetto che fosse reale questa cosa sta emergendo, ma non tanto per colpa dei giocatori in questo caso, ma dei sistemi di gioco. Nel senso che Eto'o era perfetto per il Barcellona e Ibrahimovic è perfetto e era perfetto per l'Inter. Devo dire che se proprio vogliamo fare una bilancia molto molto spannometrica, credo che ci abbia guadagnato cioè che l'Inter giochi meglio dell'anno scorso e il Barcellona giochi peggio, quindi fondamentalmente se una delle due, se deve essere 51-49, diciamo 51 Inter e 49 Ma Barcellona. Io direi anche parecchio di più, sai, perché in ogni caso l'Inter ha portato a casa un pacco di quattrini. Quindi insomma, non è stato uno scambio alla pari, è stato uno scambio con Ibrahimovic, è stato reputato molto molto più di Eto'o. Ora, è vero che Eto'o la sta beccando da poco a mai, però è anche vero che poco più di lui la sta beccando Ibra, che è costato però un occhio alla testa rispetto a... Considerando il guadagno, facciamo semplicemente il guadagno qualitativo del gioco, a me pare abbastanza evidente che l'Inter abbia molte più soluzioni rispetto all'anno scorso e comunque si è rinforzata, perché all'Inter non è arrivato soltanto Eto'o, ma sono arrivati anche giocatori importanti come Schneider, è arrivato Diego Milito, è arrivato Lucio, cioè sono tutti giocatori pesantissimi. Il Barcellona ha cambiato solo quello e probabilmente gioca peggio rispetto all'anno scorso. Ora, dire che sia tutta colpa di Ibra non me la sento, secondo me non è così. Ibrahimovic è un grande campione, certo. però probabilmente innestato in una situazione fluida e perfetta, lui non ha potuto fare la differenza, la faceva in situazioni imperfette, che erano la Juventus prima e l'Inter poi. Imperfette significa che non avevano dei meccanismi particolarmente oliati o particolarmente qualitativamente alti, e dove invece con la sua forza fisica, con il suo talento straordinario, riusciva a ovviare a magari una manovra un pochino più farraginosa rispetto a quella del Barcellona. Con una squadra invece che giocava benissimo palla al piede e che magari tiene la palla molto più bassa rispetto a quello che serve Ibrahimovic, ecco che Eto'o invece era più giusto, così come è meno giusto per il gioco di Mourinho. Restano due grandissimi giocatori, intendiamoci. Fabio, riassunto della vigilia del Manchester, così anticipiamo domani sera. Allora, pare che Wayne Rooney fosse, non dico una finta, ma fosse un falso allarme, e invece c'è un Brown di meno, quindi è uno squalificato grosso, mi pare, del Manchester. Sì, perché comunque il Manchester è riuscito a recuperare sia Vidic che Ferdinand, e in difesa la cosa molto importante, però continua a avere problemi in difesa. La questione di Rooney, mezza mascherata, però Ferguson... Se ha fatto finta, ha fatto finta molto bene, perché l'altro giorno in conferenza stampa era sembrato molto arrabbiato, ma non con Capello, era molto arrabbiato con Rooney, perché secondo lui ha giocato troppi minuti l'amichevole contro l'Egitto e si era speso troppo. Però Rooney quando gioca, certo. Che o lo tieni fuori e allora guarda la partita, ma se gioca al 100%, quindi nel momento in cui va in campo bisogna soltanto sperare che non si faccia male. Fabio, noi torniamo a sentirci giovedì a Cose Fatte. Sì, a Cose Fatte, tenendo sempre presente la pesantezza di quel gol di Seedorf e l'espulsione di Carrick inopinata, che potrebbero pendere in maniera pesante a favore del Milan, pur sapendo che il Manchester United, per effetto del fatto che è l'unica squadra che ha vinto in trasferta, è favorito o strafavorito. Però speranze ce ne sono, sia per la Fiorentina che per il Milan. A giovedì allora. A giovedì, grazie, ciao a tutti. Grazie a Fabio Tavelli. Una notizia che arriva dall'Inghilterra, che anche questa è di stamane. Ci sarebbe stata, anzi c'è stata, una serie di registrazioni segrete, insomma degli ascolti, okay, di telefonate tra membri della federazione inglese alla vigilia di Inghilterra e Egitto. Tutto questo registrato è stato poi trascritto e è già stato offerto a molti tabloid inglesi, che fino ad ora hanno declinato l'offerta di pubblicazione. La federazione inglese si sta difendendo con minacce preventive, ma è possibile che tra gli argomenti, tra le cose intercettate, ci siano anche tutte quelle che hanno fatto che hanno popolato i giornali di gossip di queste ultime settimane, che hanno tormentato Capello e finché ce n'è. Leggo a scendere gli ultimi tre messaggi ricevuti. Risolto il problema a Viareggio? Grazie. Tornata alla ricezione a Prato? Grazie. Ricezione pessima anche a Pescara, segnala Margherita. E allora adesso mi raccomando, amici tecnici, rivolgere le vostre attenzioni in direzione Adriatico. Due giornate di squalifica, è già uscito il verdetto del giudice sportivo di oggi, due giornate di squalifica a Zarate della Lazio, con un'ammenda di 10.000 euro per aver rivolto all'arbitro espressioni insultanti, contestando la sua decisione con un atteggiamento platealmente esagitato. Una giornata a Bianco Atalanta, Canini Cagliari, Jimenez Parma, Cannavaro Napolis, Frey Chievo, Pepe Udinese, Lazzari Cagliari, Raimondi Livorno, Samuel Inter e Zebina Juventus. Gli ultimi erano diffidati. Tra gli allenatori, ammonizione con diffida e ammenda di 8.000 euro per Eddie Rea per aver a sua volta contestato l'operato arbitrale con plateale gestualità. Ernesto ha chiamato dalla provincia di Modena. Buongiorno. Buongiorno dottore, la ringraziamo per l'opportunità che ho. Io dunque sono un arbitro di calcio, no? Mm-hmm. Fra l'altro sono un grande amico di un arbitro americano, di football americano a livello professionistico. Mm-hmm. E loro si avvalgono di un aiuto tecnologico che, da quello che ho capito, che mi riferisce Donald, è molto utile in tutte le cose. Io mi dico, quando mi trovo ad arbitrare, io faccio settore, soprattutto settore giovanile, perché ho avuto un grosso infortunio al ginocchio e ho dovuto smettere di praticare calcio, ma pur di rimanere nell'ambiente. Io dico, qualche volta faccio anche il guardialine, e le dico che è praticamente impossibile poter dare una valutazione esatta su un fuorigioco quando c'è un lancio di 30-40 metri. Come si fa? O almeno neanche uno strabico riuscirebbe, perché o tieni la linea dell'ultimo e vai su e sbandieri quando parte, ma non riesci a tenere esattamente. Poi figuriamoci quando c'è un incrocio. È impossibile. È difficilissimo, Ernesto. Infatti io sono d'accordo con lei, ma tutti sono d'accordo con lei sul fatto che sia molto difficile. Ma allora come spieghiamo, se è così impossibile, come spieghiamo che i guardalinee italiani in particolare ne beccano 95 su 100 esattamente? Non è così impossibile allora. No, è impossibile, dottore, dare una valutazione esatta. Però questi li beccano, e allora com'è che è così impossibile? Bisogna essere bravi, allenati, allenati all'impossibile, sta dicendo lei, e infatti è vero, perché, perché ci vorrebbe lo strabismo, ha ragione anche su questo. Perché un occhio deve guardare la palla che parte in quella frazione di secondo, e nella stessa frazione di secondo che allineamento c'è nella tua direzione frontale, perché tu devi essere lì dove sulla linea di dove ci sono l'attaccante e il difendente, chiamiamoli così con gergo tecnico. Però ci riescono questi, e ci riescono molto bene. Già ci si riesce molto meglio di prima in genere in tutto il mondo, e in particolare in Italia. E dunque non è una missione impossibile, è una missione difficile. Marco, provincia di Torino, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Stavo sentendo i vari giornali radio, dicono ma partita a rischio della Fiorentina causa neve, i tifosi che si stanno spostando con tutti i disagi che questo può comportare. Allora, io mi ricordo nell'85 un Juventus-Liverpool giocato a Torino, finale di Supercoppa Europea, dopo una nevicata incredibile fatta a Torino, nel vecchio comunale, teloni, spalatori e tutto. Alle 20:30, 21, la partita si gioca regolarmente e tutto a posto. Cioè, sono passati 25 anni e continua problema neve, ma non mezzo metro, un metro di neve, perché loro lo potrei capire anch'io. Cioè, si parla di partite a rischio. Io onestamente non riesco a capirlo questo. Beh, ma non mi sembra però che sia stato lanciato un allarme da parte degli allarmi della Protezione Civile ormai. Gli allarmi sulla Protezione Civile sono di un altro genere, però la Protezione Civile l'allarme l'ha lanciato, mi pare, per domani e per l'Emilia Romagna. Oggi, intendo dire, non mi pare che nessuno abbia ancora drammatizzato questa notizia, è stato semplicemente segnalato che a Firenze potrebbe nevicare. Beh, insomma, non mi pare una cosa, dice giustamente lei, così fuori dall'ordinario, ma non mi pare neanche che questa notizia sia stata caricata, tant'è vero che gonfiata in qualche maniera, tant'è vero che tutti stanno regolarmente affluendo in direzione di Firenze. Ho letto prima un messaggio di questi tifosi fiorentini che arrivano da Bergamo e tanti altri ancora. Mimmo ha chiamato da Napoli, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, è la prima volta che ho il piacere di sentirla. Volevo chiederle, volevo dirle una cosa. Io ho giocato per una quindicina d'anni tra i dilettanti, l'arbitro negli spogliatoi ci chiamava per nome, chiedeva eccetera eccetera, e poi le raccomandazioni. Ragazzi, e a due capitani e a voi tutti, collaborate perché veniamo, ci divertiremo tutti quanti. Però ho i miei collaboratori, ho io, mi diceva questa frase, se sentiamo una bestemmia vi cacciamo fuori, senza nessuna discussione, e si andava a giocare. Adesso questa cosa la si travisa e dice chi comanda la moviola, chi l'ha sempre comandata la moviola, chi è gestore delle televisioni comanda la moviola, si inventa che se uno vede il labiale allora a quel punto si può dare la squalifica. Questa è la risposta che, per dire cosa? Per dire che quando avete fatto la lettera, visto che questo non è un problema, è un problema italiano, non europeo, da un punto di vista calcistico, hanno respinto perché in Italia sarebbe l'unico paese al mondo che non userebbero mai la moviola in campo, per un motivo molto semplice, perché io che ho seguito tutte le puntate di Calciopoli da protagonista, nel senso che sto in pensione e so, ho seguito, è tra le varie intercettazioni il controllo totale della moviola. Ma come si può pensare che uno si bestemmia 22 giocatori tutta la partita, Mimmo, e scelgono le persone da addebitare? Magari quella persona lì sa che la domenica dopo, visto che c'è il controllo della moviola, sa che la domenica dopo dovrà incontrare quella squadra, chiama Toselle e dice quelli due, oppure quelle immagini pilotate fanno vedere, Mimmo, quelle persone lì. Lei parla di un lì. Controllo della moviola che era un po' diverso, era il controllo dei commenti della moviola, non il controllo della moviola in sé, strumento peraltro infernale. Io sono d'accordo con lei fino ad un certo, per un bel pezzo di strada sono d'accordo con lei. L'ho definita buffonata questo provvedimento, insisto, vado avanti, rincaro se vogliamo, perché davvero è ridicolo quello che è stato fatto, e cominciano a essere ridicole le prime modalità, ma sono già cominciato la settimana scorsa. Se leggiamo le motivazioni di squalifica o di assoluzione, veramente pensiamo di essere al bagaglino, ma un bagaglino di terzo, il bagaglino era di terzo ordine, ma insomma questo allora è di quarto, eccetera eccetera, su questo siamo d'accordo. Da qui al sospetto che cominceranno le squalifiche ad personam, perché la bestemmia si può prendere su chiunque e c'è un'entità superiore che controlla la moviola, sinceramente mi sembra tipico del nostro cacciare fantasmi. Non che a pensar bene in questo paese si indovini, perché si sbaglia e basta, però ogni tanto vogliamo esagerare, e lei mi sembra che da questo punto di vista si faccia mancare poco. Parliamo invece, piuttosto, visto che siamo su argomenti regolamentari, parliamo di questa incredibile storia di questa brutta storia di Borgo Abugiano. Stiamo parlando di Serie D, Girone D, e stiamo parlando di una partita domenica scorsa, nell'intervallo della quale muore in tribuna per un infarto, nell'intervallo di questa partita Borgo Abugiano Fossombrone, muore in tribuna per infarto un dirigente della squadra di casa di 61 anni, Roberto Luporini, che è anche lo speaker dello stadio, poiché era il personaggio di questa squadra, di questa società e di questo borgo di 9.000 abitanti. Cosa succede? Succede che il pubblico si ferma e la squadra fa lo stesso, per cui va negli spogliatoi degli avversari e dice: sentite, noi non ce la sentiamo più di giocare, vorrà dire che continueremo, recupereremo un'altra volta. Pare, ma non ho dubbi, che da parte degli avversari non ci sia stato nessun tipo di diniego e nemmeno poi di furbata, cioè di riserva, scritto, di qualcosa di questo genere. Per cui di comune accordo hanno deciso che non c'erano più le condizioni ambientali, umorali per giocare questa partita. Molto bene. Borgo Abugiano ieri ha avuto la sconfitta per 0-3, un punto di penalizzazione e 1.000 euro di multa per avere lasciato il campo una volta saputo di questa notizia. Ecco, anche questo è il calcio italiano di oggi. Claudio ha chiamato la provincia di Pesaro. Buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Sono un interista e volevo il vostro parere, visto che ho visto la mia squadra negli ultimi partiti un po' in calo, capito? Scarica. Adesso mi va a scinare dal campionato sia in casa sia in Champions League. Volevo il vostro parere che... Il mio parere è che è scarica per l'appunto. Il mio parere è lo stesso suo, cioè è lo stesso di Moratti. Anzi, sentiamo quello di Moratti, che mi sembra più significativo, visto che l'abbiamo. Moratti su questo momento, subito seguito al pareggio col Genoa. Mi sembra che non siamo partiti con il nervo giusto, con il carattere giusto. Molte volte non ti viene, insomma, per cui così è stato il primo tempo, secondo tempo bene, ma un tempo non basta per vincere una partita. Insomma, è stata affrontata la partita con meno carattere del solito. Ma non era un granché da lungo anche a vincere, ma però insomma era certamente dei punti in più, poi alla fine si fanno i conti alla fine e vedremo. Come vede anche insomma, ascoltando tra non dico tra le righe, ma insomma tra le pieghe di questa breve intervista, anche Moratti non è soddisfattissimo e non è molto convinto che l'Inter non sia in un periodo un po' di involuzione. Lo testimoniano d'altra parte i risultati e i punti. Perché se prendiamo le 8 giornate del girone di ritorno, quindi tetto massimo di 24 punti, l'Inter ne ha fatti 14 su 24, che per una capolista sono davvero pochi, non solo, ma in questa particolare classifica è sesta al momento. Davanti c'è la Roma, poi ci sono Bologna e Sampdoria, poi c'è il Milan, poi c'è un'altra che non ricordo e poi c'è l'Inter a 14 punti, oggettivamente. Pochini. Beh, avrete sentito dalle ultime, dalle strade, che insomma, non, proprio così rassicurante la situazione neve non è, nel senso che no, è vero, non nevica ancora a Firenze, ma per chi ci sta arrivando, per esempio, dalla Cisa, tra Parma e Pontremoli, mi pare di aver sentito che nevica e come, e comunque qualcosa sta cominciando a scendere un po' a raggiera, mi pare, sull'Appennino. Sicché, insomma, se non altro cautela e attenzione, poi sperando che almeno a Firenze invece non succeda, che la partita si possa giocare regolarmente. Sentiamo cosa ci ha preparato per oggi Nicola Filippone. Sembra ieri. 9 marzo 1924. A Milano la nazionale italiana non va oltre lo 0-0 in amichevole contro la Spagna. Inizia con un pareggio la seconda esperienza di Vittorio Pozzo sulla panchina azzurra, 12 anni dopo la prima parentesi alle Olimpiadi di Stoccolma. La federazione lo ha ingaggiato sperando di centrare una medaglia ai giochi olimpici che si terranno a partire da maggio a Parigi. Ma in Francia l'Italia si farà eliminare dalla Svizzera ai quarti di finale. Al termine dei giochi, Pozzo rassegnerà le dimissioni per riprendere a fare il dirigente alla Pirelli. Tornerà alla guida della nazionale nel 1929, per rimanerci quasi 20 anni, vincendo 2 campionati mondiali e un oro olimpico. È un lungo andirivieni quello di Vittorio Pozzo alla guida della nazionale. Ripeta per cortesia, scrive Max da Udine, il nome di quella squadra penalizzata 0-3 anche in mortis causa. Si chiama Borgo Abugiano e Borgo Abugiano gioca in Serie D, Girone D, ed è una località, insomma, tra le colline, mi pare di ricordare, di Pistoia e di Lucca, non lontano da Monteatini. Tocca a Luigi, ha chiamato da Pisa, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo portare un ricordo per Tonino Carino, sì. Perché nel 77 io facevo la scuola alberghiera ad Ascoli Piceno e dove veniva inserito l'Ascoli Calcio, e quindi ho conosciuto personalmente sia Costantino Rozzi che Tonino Carino, perché noi ragazzi che venivamo da fuori, il presidente ci faceva entrare in tribuna gratis naturalmente, e io ero quel birbantello che mi mettevo sempre dietro Tonino Carino, che appena era in collegamento salutavamo i nostri genitori che sono lontani. Posso garantire che era una persona veramente genuina, ecco, questo ricordo me lo porto nel cuore come se fosse andato via un pezzettino di me. Quindi Ascoli, bellissima città, dove grazie. Siamo ripetuti. Grazie. Un intervento quanto mai opportuno. Molti stamani hanno ricordato Tonino Carino, che era uno dei simboli di quel 90° minuto che fece epoca nella storia della televisione italiana e che aprì secondo me la strada a caratterizzazioni un po' eccessive. da un punto di vista calcistico e televisivo, ma che allora evidentemente non si poteva sapere, non era la mia passione. Io trovavo che molti di questi caratteristi togliessero in realtà con le loro performance spazio alle immagini. Quello era il momento fatato, magico delle immagini, che per la prima volta si potevano vedere, e poi non ce ne sarebbero state molte altre nel corso della giornata, perché la Pay TV era ben al di là da venire, e gli appuntamenti sportivi televisivi della domenica pomeriggio e sera non erano certamente numerosi, anzi insopportabili come adesso. Però indubbiamente quel teatrino che Valenti, con grande professionalità e un buon pizzico di cinismo, allestì, mise in piedi, ebbe una grande presa popolare, nazional popolare. Michelangelo ha chiamato da Napoli, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Sì. Volevo porle un quesito a proposito di alcuni pareri che si danno circa il Napoli Calcio, e volevo il suo parere. Sì, mi sente? Forte e chiaro. Ah, mi scusi. Si dice tanto che a Napoli abbiamo Lavezzi e Hamsik, che sono dei grandi giocatori, però poi si dice che la squadra non possa avere tutti e quattro gli esponenti di spicco, perché altrimenti poi la squadra non ha copertura. E allora io mi chiedo, ma non dovrebbe essere l'obiettivo di un calciatore diventare, che ne so, come i centrali del Barcellona, o Lampard, o Giggs del Liverpool, o Rooney per esempio, che fa il centravanti ma all'occorrenza anche lo stopper, senza per questo perdere lucidità in zona gol? Non le sembra che siano troppo montati salvo poi ricredersi quando si tratta di arrivare al dunque? L'ascolto per radio, grazie. No, non mi sembra, Michelangelo. Sentivo un discorso tortuoso, sinceramente un po' lambiccato, un po' arrampicato. Io vedo che i giocatori del Napoli più tornano e rientrano più o meno come tutti i loro colleghi italiani e non. Poi certo ci sono le partite in cui si torna più volentieri o si torna più frequentemente, perché sono partite che uno sente in maniera particolare, ce ne sono altre un po' meno, però le coperture dipendono dalla disponibilità del giocatore, ma dipendono anche dai moduli. Dato che Mazzarri è uno di quelli che il calcio, se non l'ha inventato, comunque ci è andato molto vicino, io credo che questo sia comunque un problema da porre a lui e non tanto a un povero untorello come me. Stefano da Roma, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Innanzitutto complimenti per la trasmissione, io ogni tanto l'ascolto nei miei lunghi viaggi in macchina. Io sono un sostenitore della Lazio angosciato, no? E avevo piacere di sapere un po' il suo volere, e se potesse in un certo senso percepire le responsabilità dell'attuale situazione della Lazio, cioè il presidente, i giocatori, l'allenatore, e spassionatamente se secondo lei la Lazio riesce a salvarsi. L'ascolto per radio, grazie. Dunque, attribuzione e responsabilità non ho una competenza specifica sufficiente per mettermi qua a sdottorare, a dire questi c'entra per il 30, quell'altro per il 50, eccetera. Non ne ho la minima idea, me ne guardo bene. Se la Lazio può salvarsi, sì, però con il rischio cioè con la certezza che servano lacrime e sangue, sicuro, perché la squadra è fragile, e lo so che è un vecchio luogo comune quello di dire non è abituata a lottare per salvarsi, però è la verità, nel senso che mi pare siano 20 o 22 anni che la Lazio non è in una situazione, 22 mi sembra, che non è in una situazione così difficile, così complicata, e quindi insomma, nessuno dei giocatori in campo, credo, ha questa abitudine, tantomeno ce l'ha l'habitat, cioè che vuol dire la tifoseria, la dirigenza e tutto il resto, e quindi questi sono i casi in cui si rischia davvero, davvero di più. Il fatto di avere 3 punti soltanto sul Livorno, mi pare, a proposito proprio il Livorno, che come è noto c'è un amore smodato tra laziali e livornesi, vuol dire che il rischio c'è, come, e che è grosso. Poi se uno esamina l'organico della formazione capisce che la Lazio in realtà di rischi ne corre meno di altre, però quando stai al quart'ultimo posto dopo 27 giornate non puoi sperare di chiamarti fuori con facilità. Filippo Aureggi in regia, Franco Piantanini in redazione, buon pomeriggio.